volevo fare solo una piccola considerazione. Daniele, la Juve non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Allarga poi il gioco per Robinho, taglia sul primo palo Boateng, cercato invece Montolivo, contatto con la mano di Isla, calcio di rigore. Buffone Robinho! 1-0! Dalla panchina mi sembrava rigore, vedendo le immagini non era rigore. Io ho 2 anni e mezzo che parlo col presidente, serenamente, tranquillamente, credo. Poi giustamente ha ragione, perché se va a cercare Guardiola vuol dire che sono molto bravo io. Il rigore è un episodio, è un rigore che non c'era, ma non abbiamo perso per quello, abbiamo perso perché non abbiamo fatto una gara da Juve. Alla fine della stagione gli errori arbitrali pesano esattamente uguale da una parte e dall'altra, e forse una battuta così un po' ironica, permettetemela, se ci fosse stato un rigore a nostro favore probabilmente non so cosa sarebbe successo, ecco. Però dove finisce braccio e comincia l'ascella? Beh, sa che in tanti anni di calcio è la prima volta che vi trovo a interrogarmi su questa cosa, così tra un'ascella e un tricipite branciale. Vabbè, comunque Adriano Allegri ha visto le immagini e ha detto che assolutamente non era rigore. Ma Guardiola avrebbe detto di sì invece che era rigore. Mi hanno fatto una domanda su Guardiola, sì. E io ho risposto in maniera esplicita. Sì. C'è un club al mondo che non sarebbe lieto di poter avere Guardiola. Vede, qua nella storia del calcio ci sono state secondo me 3 squadre che hanno segnato questa storia. Uno è senz'altro l'Ajax di Cruyff, un altro è il Milan dei 3 olandesi, nel recente passato, ma è il Barcellona. Quindi a un certo punto tutte le squadre vorrebbero avere la possibilità di giocare come ha giocato in Barcellona, e anche Allegri lo sa benissimo. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti. Oggi Miriam Lucchetti in redazione, Filippa Oreggi in regia. Simpatia per il diavolo, sympathy for the devil, l'avrete riconosciuta dagli Stones, ma sympathy anche per Rizzoli che ieri ha fischiato sto rigore che oggi mette tutti d'accordo, o no? Ve lo chiedo, tutti convocati, 800240024, quantomeno mette d'accordo quella mezza Italia o giù di lì che non tifa Juventus. Finita qui? Juve battuta da un rigore che non c'era? Poveri illusi. Sapete bene che non sarà così, ma intanto oggi ci divertiamo insieme. 800240024, Marco Ansaldo, inviato e prima appena della stampa. Ciao Marco. Ciao Carlo. Anche tu sympathy for the devil oggi? Sì, sympathy for the devil, come canzone intendi? Come canzone, ovvio che sì. No, ma al di là di questo, visto che siamo sul diavolo e sull'anima, sì. O sull'animismo, la mia sensazione è che ieri sera si siano scambiate Juventus e Milan non le magliette ma l'anima, la peggior Juventus degli ultimi 2 anni che ha fatto il Milan, no? Il solito Milan che fa possesso palla sterile di plastica e non ne cava niente, la Juventus che non ha il sangue agli occhi e che si fa mettere sotto sul piano fisico da una squadra che tutti dicono morta o quasi o moribonda, non può essere la Juventus vera. Stanchezza forse, ma forse anche presunzione. Io ci metto ancora una terza cosa, alle due che sicuramente c'erano, che hai sottolineato tu, ed è il fatto che ormai la Juventus, almeno in Italia dove la si vede molto spesso tutte le settimane e a volte anche 2 volte alla settimana, gli allenatori più attenti alla tattica cominciano a capire come la si può fermare. E guarda, tutto sommato, la partita dell'Inter, la partita del Milan, e ci troverai moltissime affinità dal punto di vista dell'atteggiamento delle due squadre nel come attaccare. Schermi Pirlo con il fisicaccio di Boateng, inducendolo a correre, e poi Bonucci non gli fa ripartire l'azione. Però è una Juventus che, se non mangia il campo, che se non gioca col sangue agli occhi, come ti dicevo, non è se stessa. No, secondo tempo ha tentato di avere sangue agli occhi, non ha cavato nulla lo stesso, quindi secondo me, al di là della serataccia in cui ho visto Pirlo sbagliare un passaggio di 10 metri, cosa che non sì. si è mai avvenuta nella storia del calcio, e Vidal irriconoscibile e tutti gli altri, però al di là di questa incapacità della Juventus di produrre gioco, di produrre proprio giocate, io credo che fosse molto difficile riuscire a passare quel tipo di schieramento che aveva il Milan, che ha avuto l'Inter. Ormai le squadre hanno capito una cosa, che la Juventus, se la affronti sul piano del gioco e se sta mediamente bene, ti può ammazzare. Sì. E allora bisogna affrontarla sotto un altro punto di vista, bisogna non farla giocare, non darle gli spazi, complicare la vita, complicare la partenza e poi giocare sostanzialmente negli spazi che inevitabilmente la Juve lascia. Il Milan ha giocato. Non ti sento convinto. No, ma sono convinto, è una lettura corretta. Rimane il fatto che il Milan ieri sera ha giocato con l'umiltà che serve a una squadra che non vale tantissimo e che deve abituarsi a vivere così, cosa che non aveva ancora fatto. Poi possiamo parlare anche della democrazia reale, oppure dell'amore libero che è stato introdotto a Milanello, no? Si flirta con Guardiola insieme ad Allegri, è un po' come scegliere con la moglie attuale l'identità della futura compagna. Questo mi fa morire da ridere. Sì, questa è stata una cosa, ma la cosa che più mi fa morire da ridere è che poi dopo le dichiarazioni degli stessi personaggi che hanno detto certe cose, due giorni dopo dicono: no, ma per carità, ma Allegri è il nostro allenatore. Dico: allora perché hai posto questo dubbio, hai posto questo problema? E mi sembra che anche il dire sì, ma tutti vorrebbero Guardiola, per carità, una cosa anche abbastanza banale da dire, anche se vorrei ricordare a chi pensa che basti avere Guardiola per avere Barcellona, che insieme a Guardiola bisognerebbe anche comprare Iniesta, Xavi, Messi. Ma infatti il problema non è prendere Guardiola e pagarlo per il perché Milan, Guardiola, se Guardiola deve giocare, con tutto il rispetto, Yepes, De Jong e tutta questa gente qua, che ieri hanno giocato tutti una grande partita, proprio perché era una partita contro la Juventus, e io ho assistito ai festeggiamenti alla fine del match, cioè sembrava che il Milan avesse vinto la Champions League, e in quel momento lì ci stava questo tipo di festeggiamento qua, proprio perché veniva considerata una grandissima vittoria. Certo che quando il Milan deve giocare contro il Parma, ad esempio, o altre squadre meno stimolanti, probabilmente non riesce a mettere tutta questa carica che ha avuto. Allora, se si vuole pensare all'allenatore del futuro, per carità, si può pensare benissimo a Guardiola, che tra l'altro non è che guadagni poco, allora forse valeva la pena tenersi Thiago Silva o Ibrahimovic. Ma Guardiola ha giocato quel calcio là perché aveva quegli uomini là. Certo. Certo, e allora bisognerebbe che pensare poi a un Milan completamente da rifondare anche negli uomini. Io credo che non sia solo... Tanto i buchi lo danno a 5 al Milan, non mi sembra una quota bassa, e di solito non ci vedono male. No, direi di no. Tanto poi oggi si continua con una giornata spalmatissima, anche troppo, che fa venire un po' di nausea, perché non si può giocare dal venerdì al martedì, però... Funziona così, e l'Inter gioca a Parma e chissà se avrà qualcosa da dire dopo la partita, il Napoli o da lamentare dopo la partita. Intanto c'è il caso Sneijder che non spalma il contratto e io lo lascio fuori, lo sentiremo dopo da Stramaccioni. C'è il Napoli che gioca con il Cagliari e può risalire, e poi domani si chiude con la Lazio. 800 24 00 24, io invece apro agli ascoltatori e li mando subito in campo. Massimiliano, Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Faccio da apripista. Faccia da apripista, sì. No, niente, io sono tifoso della Juventus, ero su ieri a vedere la partita. Credo che, come in Italia succede spesso, siamo molto figli dei risultati, perché il Milan non ha giocato assolutamente male, forse meritava qualcosa in più, però se veniva fuori un 1-1 non mi sembra che sarebbe stata una cosa così scandalosa, perché il secondo tempo si è giocata una porta sola. È vero che noi concludiamo poco perché ci manca un attaccante con la A maiuscola, però insomma il secondo tempo abbiamo giocato una porta sola. Avete secondo me un attaccante con la V maiuscola ieri sera, non in gran serata, che è Mirko Vucinic. Sì. Vi manca il giocatore in grado di risolvere da solo queste partite. Beh, io continuo a pensare sia stata la peggiore Juventus come atteggiamento degli ultimi 2 anni, lo ripeto, perché non ho mai visto la Juventus giocare con così poca cattiveria agonistica, e se la Juventus non ha quel fuoco dentro non, è una squadra diversa, diventa una specie di Milan di questi tempi, cioè una squadra che fa un possesso palla lento, che cerca i varchi laddove non ci sono. Se si trova di fronte una squadra che ieri ha giocato da provinciale, vediamo se qualcuno che si offende al Milan e mi può anche chiamare, come ha fatto Stramaccioni quando hanno detto interprovinciale, ma è così che devi giocare contro la Juventus, e la Juventus ha spesso la forza di essere più provinciale di te, ed è questo che le permette di vivere e di vincere, perché questo è il senso. Paolo Milano. Pronto? Eccoci. Eccoci, dica. Volevo fare un commento sui commenti di Massimo Mauro. Commento sui commenti di Massimo Mauro, quali? Beh, sia quelli dell'Inter che quelli del Milan, che quelli sul Milan. A proposito di onestà intellettuale, no, di Massimo Mauro, che con l'Inter già si era tradito abbastanza nel chiamare un rigore, cioè nel sollevare dubbio su un rigore assolutamente netto, mettendo in imbarazzo Marcheggiani, tra l'altro, lì a fianco. Che... Bah, sì, ognuno può dire quello che vuole. Sì, sì, sì, sicuramente. Poi dopo, come dire, ne tiene il prezzo, ci mancherebbe altro. Certo, può dire quello che vuole. Ma ancora ieri, anche lì, diceva il Milan, mi è piaciuto sulla parte difensiva e non sulla parte offensiva. È un po' il concetto della... anziché sudditanza psicologica, della pressione psicologica che la Juventus riesce a esercitare attraverso una serie di leve che lei può utilizzare, stampa compresa. Cosa ha detto Mauro di strano? No, Mauro ha detto di strano una cosa che un commentatore bravo, lui tra l'altro lui è molto bravo, quindi non sto dicendo, lui tecnicamente è veramente... No, mi ripeta, secondo lei che cosa ha detto di strano? Cosa che il Milan ha giocato in maniera difensiva e non in maniera offensiva. Ed è vero? Sì, beh, è chiaro che è vero, ma non devi dire sì, è vero, ma devi anche valorizzare la prestazione in un certo modo. Lui non l'ha fatto, tende sempre a sminuire. È vero che il Milan ha giocato una gran gara di corsa. Io ho visto Shaarawy spaventoso ieri sera. Giocare da terzino e da attaccante, e quando è riuscito a giocare da attaccante pure con grande lucidità. È verissimo che il Milan ha fatto una gara difensiva, possesso palla alla Juventus, prendetela voi, noi siamo qui, rimbalzateci addosso, vediamo se riuscite a farci male. Non sono riusciti a fargli male perché non avevano il cambio di passo, perché non avevano la corsa, perché non avevano il solito furore agonistico. Dunque è verissimo che il Milan ha giocato una partita difensiva, lo ripeto, da provinciale, voglio vedere se qualcuno si offende. Ha giocato con l'umiltà che serve a una squadra che non vale tantissimo e che deve abituarsi a vivere così. Fino adesso non l'aveva fatto e la classifica lo spiega. Questo è quanto. Non mi sembra che Mauro abbia detto una stupidaggine, tutt'altro. Domenico Bari, buongiorno. Buongiorno, signor Gente. Dica. Io l'ascolto sempre, quindi insomma è una bellissima trasmissione, complimenti. Grazie. Senta, volevo parlare del caso Schneider. Sì. Secondo me la società ha fatto bene a metterlo fuori rosa, perché un giocatore, insomma, deve essere grato al presidente Moratti che lo ha sempre accontentato. Io non lo so, volevo sapere un suo parere. Io un campione non lo metto fuori squadra perché non spalma il contratto, siamo sempre alle solite. Chiaramente Schneider non è gradito in questo momento all'Inter, ma non, non è gradito da tempo. Secondo me il rapporto tra l'Inter e Snyder si è rotto 2 anni fa, quando era uno dei giocatori più forti del mondo, reduce dal mondiale, lo hanno messo sul mercato, hanno provato a venderlo, non ci sono riusciti, è andato via Mourinho. Da allora Snyder è sempre stato una sorta di indesiderato, adesso viene messo fuori rosa per queste ragioni. Ovviamente l'Inter lo cederà a gennaio, ovviamente guadagnerà molti meno soldi rispetto a quanti ne avrebbe presi in passato. Io continuo a considerare Snyder un grandissimo giocatore, tra l'altro molto eclettico, perché può giocare in un sacco di ruoli e sbaglia chi lo vede soltanto come un trequartista. Lui nato addirittura come giocatore di fascia sinistra, a piedi, a tiro, a personalità. Secondo me è un gran giocatore. All'Inter non lo vogliono più, probabilmente lui non vuole più l'Inter, di conseguenza il gioco è questo. Già che ci siamo, Stramaccioni cosa ha detto? A questo punto si inserisce la mia di posizione, che è quella dell'allenatore, che ovviamente ascoltate e sentite tutte le situazioni. L'allenatore, che in questo caso sono io, decide, per quello che vede sul campo, per quello che respira, per quello che vede in pinetina, decide di non utilizzare il calciatore come una scelta tecnica, perché questa è la mia valutazione, ovviamente sperando che ci si possa al più presto sedere a un tavolo per risolvere la situazione. Detto questo, io andrò a Parma con i giocatori migliori in questo momento che reputo per provare a fare risultato su un campo difficile, e decido di non utilizzare Snyder in questa occasione. Tutto chiaro, no? Rottura dichiarata, ci si siede a un tavolo per risolvere dei contratti. È presto, si tratta di trovare un acquirente per Wesley Snyder. Walter, provincia di Ferrara. Salve Genta, buongiorno. Buongiorno, vuole sentire qualche voce di ieri? Ma guardi, l'ho già sentita abbastanza. Le interessa qualcosa? Non lo so, Alessio, Bonucci... Ma guardi, Alessio, posso dire una cosa, ci manca il nostro mister, perché per me è un buon allenatore, però ieri ho fatto un paio di inquadrature e l'ho visto... L'allenatore visto dietro il vetro. Vabbè, allena tutta la settimana e poi va dietro il vetro, ma ancora non per molto. Vuole sentire Buffon o Marotta? Oppure le interessa Allegri? Guardi, mi posso sentire Marotta, che qualche critichina nostro DS ce l'avrei da fare. Benissimo, allora sentiamo Marotta, per cui doveva finire con un risultato a occhiali. Ma è chiaro che la gestione di due competizioni importanti come la Champions e il campionato sicuramente sono gestioni molto difficili, però la Juventus nella sua storia era abituata a partecipare a queste competizioni, e quindi questa esperienza ci deve servire per nel futuro, prossimo futuro, per affrontare in modo uguale le due competizioni. Ma io credo che sì, il Milan, per l'amor di Dio, bisogna riconoscere anche proprio la propria partita, ma nel secondo tempo l'abbiamo fatto quasi tutto nel metacampo del Milan, e ritengo, appunto, come dicevo prima, questa sarebbe stata una partita da 0-0. Partita da 0-0 e un po' di masturbazioni mentali sulla gestione delle due competizioni. Secondo me c'entra poco la partita meravigliosa con il Chelsea che il Milan, che lì la Juventus ha giocato 3 giorni prima, perché la Juventus ieri non era se stessa. Walter, dunque. Ma il buon Beppone tralascia un piccolo particolare non da poco per me. Cioè? Insomma, ieri si è visto, il Milan è una squadra che mediamente, sicuramente come difensori, è più forte del Pascal, non è che non possiamo negarlo. Ieri hanno giocato compatti 8-10 dietro la linea della palla, sì. La Juve non trovava gli spazi. E gli spazi come li trovi? Li trovi se magari davanti a un certo centravanti che giocava nel Chelsea, che è una specie di roccia, e che quando sì. tu non sei tanto in forma sì. ti può scardinare quella. E il signor Beppe forse lo sa questo argomento. Sì. Noi juventini stiamo aspettando abbastanza. Uomo nero che gioca in Cina, quello lì. Sì, proprio quello là, quell'uomo lì che forse qualche grattacapino in più al signor McSex e gli Eppes forse ieri sera glielo poteva dare. Sì. Ecco. Siccome non possiamo giocare sempre al 100% con la bava alla bocca, e devo dire a me che sia Allegri perché e Stramaccioni no? l'hanno capita, perché ci hanno affrontato più o meno, sono d'accordo col giornalista che ha parlato prima, loro ci hanno aspettato compatti dietro la palla ieri, noi facevamo fatica a trovare gli spazi, sì. hanno avuto giocatori che si sono sacrificati come il Sarabi che ieri ha fatto 20.000 chilometri, sì. e ripartendo veloci, noi pressando molto, lasciamo sempre molte volte 3 contro 3, è l'unico modo di affrontarsi. L'anno sì, che il Milan ha sbagliato, come Allegri ha sottolineato in diverse occasioni, questa superiorità numerica dovuta alle ripartenze, ma mi domando perché la Juve non possa giocare sempre da Juventus con le sue caratteristiche. È una squadra sufficientemente profonda per poterlo fare, al di là del sogno dell'uomo nero che gioca in Cina e che magari tornerà. Certamente un giocatore di questo tipo alla Juventus manca, ma credo che la Juventus sia sufficientemente completa, e lo ripeto anche oggi, per vincere in maniera piuttosto semplice questo campionato, certamente non giocando così. State scrivendo anche una pioggia di sms che faccio fatica un po' a leggere. Ma secondo lei cosa avrà detto Quagliarella ad Alessio al momento della sostituzione, coprendosi la bocca con il bavero del giubbotto? Non mi sembrava particolarmente contento, domanda Andrea da Pisa. Gli avrà detto certamente: amico, guarda la mia media gol in questa stagione e poi magari la prossima volta pensaci prima di cambiarmi. Sto mettendo il bavero davanti alla bocca anch'io. Non ho idea, non ho più pallida idea di cosa abbia detto. Certamente Quagliarella in questo momento, come media reti tra minuti giocati e gol realizzati, è un giocatore che in una partita così magari non togli, in cui devi rimontare peraltro. Bah! Allora, Carlo da Bergamo. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dica. Io premetto che sono un tifoso interista. Sì. Ma volevo parlare di quello che sia Marotta, Marotta, che alcuni quotidiani sportivi e non, oggi chiamano la partita persa con lo stile Juventus, no? Allora, io faccio questa considerazione. Se dovesse capitare alla Juventus quello che è capitato nelle ultime quattro partite, Juventus Catania, Inter Atalanta, Atalanta Cagliari, e a questo punto mi chiedo, ma lo stile Juventus come si comporterebbe? Non lo so, come... togliamo i condizionali. Mi scusi. Sì, la scuso. Prego. Visto che qualche giorno fa in settimana il presidente Agnelli, proprio per fomentare la polemica, dice: noi siamo l'unica squadra che ha vinto i 5 scudetti. Ancora lì siamo. Ecco, ma siamo ancora lì. Ma lo stile Juventus. Lo stile Juventus non esiste più da un sacco di anni, io credo. Ieri sera si sono comportati in maniera civile. L'inciviltà l'ho vista da molte altre parti. La Juventus ha perso finalmente, per la gioia di tutti quanti, meritatamente e con un rigore che non c'era, e non saprei dirle, se le diamo tutti i condizionali che ha messo lei, come possa diventare lo stile Juventus. Probabilmente uguale allo stile di tutti gli altri. Saluto e ringrazio Alessandra Bocci, inviata dalla Gazzetta dello Sport, e mia amica. Ciao Alessandra. Ciao, come stai? Io benissimo, sono qui a divertirmi con i miei amici ascoltatori, il prossimo dei quali arriva da Firenze, lo faccio sentire, rispondiamogli insieme. Vittorio? Ciao. A tutti, Alessandra, a te e a tutti. Io volevo dire una cosa, velocemente, però volevo farla completa, il mio pensiero, perché a volte non c'è tempo. Ed è questo il mio pensiero, io sono tifoso del Napoli, perciò non mi può far che piacere la vittoria del Milan con la Juve. Sì. È tutto il contesto che non mi piace, perché... mi spiego velocemente, se una squadra attacca per 90 minuti e mi danno un rigore che non c'è l'ultimo minuto, ci sta il dire tanto meritava, ma se tu apri le danze in un primo tempo con un rigore che non c'è, una Juve che nel secondo tempo ti poteva aspettare perché era il Milan che doveva vincere e non la Juve, e in contropiede la Juve poteva, volendo, fare molto diversamente da quello che ha fatto, non credo che sia tutto così scontato con un rigore dato in quella maniera lì. Tutto, per l'amor di Dio, poi dopo ci sta tutto. No. Però allora, vediamo la partita senza rigore nel secondo tempo, sì, come va? Sì, ma no, vediamola con il rigore come va. Cioè, è chiaro che la Juventus deve attaccare, il Milan gioca di rimessa e il Milan ha giocato una gara provinciale perfetta. Questo è quanto. Poi ha detto giusto Buffon, ci danno un rigore contro a un'ora dalla fine, qualcosina in più dobbiamo fare, cosa che non è capitata. No, Alessandra? Io non sono tifosa di niente, come sai, a parte il Livorno. Sì. Penso di poter parlare con molta serenità e avendo anche visto parecchie partite, perché purtroppo per me sono ormai abbastanza anziana. Allora, Credo che il Milan abbia giocato una buonissima partita, un primo tempo eccellente, il secondo tempo certamente è andata meglio la Juventus, anche perché il Milan è calato, perché va speso tanto. Sappiamo che è una squadra che in questo momento deve faticare tanto, come dice il suo stesso allenatore, l'amministratore delegato, i giocatori, tutti, per ottenere determinati risultati. Credo che episodi come quello che è accaduto ieri a favore del Milan, ma è talmente banale dirlo che mi vergogno anche un po', accadano continuamente, molto spesso a favore della Juventus, spesso a favore di altre squadre. È successo anche abbastanza recentemente. Perciò io credo che, insomma, adesso baloccarsi con rigore, se c'era prima, se c'era dopo, se lo davano prima, se lo davano a metà tempo, mi sembra abbastanza un esercizio di stile. Sinceramente non credo che cambi la sostanza. No, sono d'accordo, ma la sostanza è che ha fatto una partita e che la Juventus ha giocato peggio di quanto tutti si aspettavano. Sì, sì, sicuro. Ma ripeto, la peggior partita degli ultimi due anni, a parer mio. Poi la Juventus, tu sai che è una gigantesca lente di ingrandimento. Però con te volevo parlare invece della stagione dell'amore libero. In che senso? Te lo dico subito. No, non so, se vuoi possiamo parlare di democrazia reale, visto che siamo in tempo di elezioni, ma preferisco amore libero. Cioè, tu vai dal tuo allenatore e dici: ascolta, cosa ne pensi se ti cacciamo via e prendiamo Guardiola, che è nettamente più bravo di te? È come andare, dicevo prima, da tua moglie e dirgli: ascolta, tu non mi piaci più, questo sia chiaro. Perché non mi dai una mano a trovarmi un'altra meglio? Adesso mi viene un commento che è meglio che non faccio. No, fallo. Su via, Santa Amici, no, non ci ascolta nessuno. No, vabbè, diciamo che insomma Berlusconi è molto, come dire, tollerante in questo da questo punto di vista, quindi probabilmente si è espresso per questo modo così. Sì. Credo che Allegri ormai abbia, io lo chiamo da qualche tempo l'allenatore Fachiro, credo che ormai abbia fatto un po' il callo, come si suol dire. Sì, ma più che il callo, poi va a casa, tiene il contratto nel cassetto del comodino, prima di addormentarsi lo tira fuori, dà una letta e dice: ma sì, facciamo l'amore libero. Però insomma la verità è che molto spesso è accaduto, anche non mi ricordo adesso in quale occasione, però escono delle cose dal Milan, delle dichiarazioni prima di partite importanti, che sono, francamente, sembra che vengano dette in momenti stravaganti. Sì. Dopodiché non ti nascondo che stanotte avendo fatto notte da Giannino, aspettando con tutti gli altri colleghi Berlusconi, e io stessa gli ho chiesto appunto di queste cose, l'amore libero, perché ero un po' incuriosita. L'avevo già sentito parlare la settimana scorsa a Milanello, e quando a telecamere spente ci ha riunito tutti, insomma, una decina di giornalisti, gli abitué. E ci ha parlato di varie cose, compreso di Guardiola. Io penso soltanto, appunto, mi sembrava un po', ripeto, bizzarro che lo dicesse prima di una partita come la Juve, a telecamere questa volta perfettamente funzionanti. Lui mi ha rispiegato il suo punto di vista, mi hanno fatto una domanda, ho risposto alla domanda. Con Allegri un buon rapporto, chi non vorrebbe Guardiola? Capito. Sì, ma restiamo amici. Però, restiamo amici, sì. Se vuoi restiamo amici. Il mio pensiero è, vado oltre, faccio io una domanda a te. Siccome mi pare abbastanza difficile che Guardiola decida di venire ad allenare il Milan. Ah, per me è impossibile. Ecco, allora, se non riescono a prendere Guardiola, chi prendono? Perché questa è la domanda che mi faccio. A questo punto, Guardiola, Allegri io non credo che, anche se riuscirà a finire la stagione, non credo che resterà al Milan. Quindi mi piacerebbe sapere qual è il piano B di Silvio B. Però non è stato svelato. Io ho un'idea di qual è il piano A, di quello di fare un gran casino, mostrando i muscoli, dicendo: siamo ancora il Milan, quindi puntiamo al massimo che c'è. Poi per il piano B, quello C e quello D ci sarà tempo e modo. Guarda, io credo però che lui faccia un errore mediatico, nel senso che ormai i tifosi del Milan hanno capito come stanno le cose e quindi non credo che gradiscano. Io sto ricevendo mail a un carteggio da stamani con un lettore che è scandalizzato per questa notizia che abbiamo riportato, un'indiscrezione che abbiamo riportato su Snyder. È inserocito, mi sta dicendo una vergogna, che voi vi siete dati al sensazionalismo. Io sto tentando di spiegargli che il mercato è fatto di cose plausibili, di cose pensate, di cose che i club poi riescono a fare oppure no. Quindi, cioè, su Snyder cosa, per la precisione? che potrebbe arrivare al Milan a gennaio, vista la situazione criticissima con l'Inter in questo momento. Però voglio dire, sono cose pensate, indiscrezioni che noi abbiamo una volta da uno, una volta da un altro, e quindi facciamo il nostro mestiere. Sì, che poi sarebbe mica la prima volta, voglio dire, che succede, saltano il fosso. Lo stesso succede con Berlusconi. Io mi rendo conto che a volte la gente, quando noi stessi facciamo i titoli di Berlusconi vuole incontrare Guardiola, poi la gente dice: ah, ma anche vuole la Gazzetta, ma basta con queste scemenze. Però questo è il piano suo, poi nessuno dica, lo dico una volta per tutti ai tuoi ascoltatori, che sicuramente saranno tutti simpatici e svegli e intelligenti, nessuno dice che Pep Guardiola venga ad allenare il Milan, ma il signor Berlusconi ritiene di poterlo convincere, o comunque dice di volerlo provare. Il nostro mestiere di cronisti arriva a questo, sì. Tutto il resto lo vedremo dopo, insomma. Sì, lo vedremo vivendo, i bookmakers lo danno a 5, che non mi sembra una quota particolarmente alta, e di solito ci beccano. Grazie Alessandra. Grazie a te, ciao, buon pomeriggio a tutti. È sempre un piacere, ciao. Alessandra Bocci. Intanto noto che la gita dei tifosi inglesi a Roma, come souvenir si sono portati un po' di maleducazione, perché c'è questa agenzia secondo cui ieri c'era Tottenham West Ham dal settore che ospitava i tifosi degli Hammers, che pare fossero presenti a Roma l'altra sera. Ebbene, si è levato un fragoroso coro terrificante: Adolf Hitler sta venendo a prendervi, con esplicito riferimento agli stretti legami tra il Tottenham e la comunità ebraica di Londra. La spazzatura non c'è solo da noi, cari miei, anche amici del Times, che avete detto che Roma è la città più pericolosa del mondo. La spazzatura, per fortuna, la spazzatura non c'è solo da noi. Dunque, prima di una pennellata di tristezza per il mondiale perso da Alonso, o vinto da Vettel, perché nelle ultime due gare ha legittimato la vittoria di un mondiale che Alonso avrebbe strameritato. Alonso 10, Ferrari un po' meno, dopo ne parliamo. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Una considerazione sulla partita di ieri sera. Sì. È vero, la Juve non ha giocato una delle migliori partite, assolutamente. Questo è il problema che si pone quando il fisico non c'è sempre al massimo. Però il problema maggiore è chi sta in panchina, deve cambiare le partite quando le partite vanno male. Perché togliere Quagliarella per far entrare Giovinco a combattere con Mexes, secondo me non ha visto la partita, era da un'altra parte l'allenatore. Sì, no, l'allenatore era lì. Sono d'accordo con lei sul fatto che Quagliarella non l'avrei mai levato. Vucinic ovviamente non si tocca, è una partita che devi ribaltare. Paradossalmente Giovinco, che non ha giocato un buon inizio di stagione, e questo continua a ripeterlo, sarebbe stato funzionale alla partita di ieri sera, perché non c'erano gli spazi e dunque uno che saltava l'uomo serviva, non magari al posto del giocatore che in questo momento ha la migliore media realizzativa. Questo sì. Fabrizio Livorno. Sì, buonasera. Mi dispiace non c'è più l'ospite di prima, Alessandra, che della Gazzetta, che volevo chiedergli del nostro Livorno una sua opinione, visto che... Facciamo un'altra volta, non si preoccupi. Ok, e niente, approfittavo per parlare di una cosa per quanto riguarda i cori dei tifosi del Verona che fecero su Morosini. Siccome non abbiamo più sentito niente al riguardo, volevo sapere com'era rimasta quella situazione e se poteva essere fatta una legge ad hoc per evitare che si ripresentassero certe situazioni, cogliere l'occasione per dire... Ma guardi, io non so a che punto siamo. Io credo che ci siano delle norme già in vigore che permettono all'arbitro di prendere in bocca il fischietto e mandare tutti a casa in casi come questo, così come di cori razzisti, eccetera eccetera. Dunque, inutile che facciamo leggi, decreti e regolamenti, se poi, ma in Italia siamo fantastici in questo, perché è il paese con il maggior numero di leggi al mondo, oltre che con il maggior numero di parlamentari, abbiamo qualche problema in più sul fronte dell'applicazione. Però cosa ci vuol fare? Nessuno è perfetto. Caro Fabrizio da Livorno, ci sentiamo presto, intanto adesso torniamo un attimo a ieri pomeriggio. E c'è un incidente con Vettel. Vettel subito ad un lago. Attenzione, colpo di scena. Vettel riesce comunque a ripartire con il pubblico in piedi. Gran boato qui sulle tribune. Colpo di scena con un incidente che ha coinvolto proprio Vettel, che aveva perso delle posizioni al via. Perde anche dei pezzi dalla sua vettura che sì, è danneggiata. Il lato sinistro dalla parte bassa anteriore davanti alla ruota posteriore sembra danneggiato. E lì già molti erano in piedi sulla poltrona. Invece sapete com'è finita così. You're the triple world champion, Sebastian Vettel. You are the man. You're a triple world champion. Berto Sabatini, direttore di Autosprint, avevamo un discorso in sospeso, lo chiudiamo oggi. Ciao, buongiorno, direttore. Buongiorno. Buongiorno. Il discorso l'ha chiuso Vettel. Discorso noi, l'ha chiuso Vettel. Io continuo a ripetere: Alonso più di così non poteva fare per batterlo. Vettel ha legittimato il suo mondiale con le ultime due gare, che sono state onestamente strepitose. Un gran peccato ad Alonso do 10, alla Ferrari il voto dallo tu. La Ferrari non vale il 10 di Alonso, è stata una macchina, è la prova insomma che in Formula 1 questo si chiama campionato del mondo piloti, però alla fine lo decidono le macchine. E la Ferrari era nettamente inferiore alla Red Bull dell'ultima parte della stagione. C'è il rammarico che se avessimo avuto, diciamo da settembre in poi, da Singapore, Abu Dhabi, India, Corea, eccetera, il binomio Alonso-Ferrari di metà anno, quello di luglio, che sembrava molto competitivo, il mondiale sarebbe arrivato a Maranello. Invece, esatto, perché, direttore, ricostruendo Alonso che riesce meravigliosamente a giocare in difesa la prima parte della stagione quando la macchina andava a pedali. Riesce perfino a vincere con una certa dose di fortuna, ma ci vuole anche quella. Nella vita ci vuole culo, come dice Ciro Ferrara, e non ha tutti i torti. Ebbene, riesce a rimanere in sci, arriva in Europa. In quel momento la Ferrari è competitiva, diventa lentamente competitiva. La Red Bull non riesce a vincere nemmeno una corsa in Europa. E poi cosa succede? Abbiamo il mondiale già in tasca, finita qui? Succede che la Ferrari si è trovata al 22 luglio di quest'anno al Gran Premio di Germania con 44 punti di vantaggio nella classifica su Vettel e 34 sull'altra Red Bull di Webber, che però, data la sua poca consistenza, non era un rivale definitivo per la corsa al titolo. E non c'è stato quel progresso di macchina che c'è stato nei primi mesi. Cioè, è vero che la Ferrari ha iniziato la stagione con una macchina molto lenta, perché durante l'inverno i dati della galleria del vento non collimavano con le prove reali in pista, e quindi la Ferrari ha dovuto accelerare tra febbraio ed aprile uno sviluppo che gli altri team hanno fatto tra novembre e febbraio. Sì. Quindi ha dovuto recuperare, e ha recuperato. Esatto. La prima Ferrari della prima corsa, che era oltre un secondo, quasi un secondo e mezzo più lenta delle rivali, è arrivata a giugno a essere all'altezza delle rivali. Perfetto. E poi lì? E lì la Red Bull ha accelerato violentemente, perché hanno fatto una serie di modifiche alla macchina gara dopo gara, migliorandola in tutte le cose di cui Vettel ieri ha raccontato i difetti della prima parte di stagione. Lui diceva che non riusciva a guidarla come sapeva guidarla lui, con i suoi trucchetti di guida a inizio anno. La Red Bull è migliorata, ma in realtà è la Ferrari che anche drasticamente si è fermata di colpo. Esatto. Perché in realtà è stata sopravanzata dalla McLaren, ma non soltanto, è stata sopravanzata dalla Force India, come abbiamo visto ieri con Hulkenberg, è stata raggiunta e superata dalla Lotus, è stata addirittura messa in difficoltà in certe occasioni dalla Williams. La Ferrari ha perso di competitività, si è plafonata, forse non perché non abbiano lavorato, ma hanno lavorato in direzioni evidentemente sbagliate e sono dovuti tornare indietro ogni gara dopo gara. Sì. Il paradosso è che pian piano Massa ha cominciato a guidarla bene e Alonso non è più riuscito a guidarla come riusciva a guidarla a metà anno. Rispondiamo insieme a un ascoltatore, poi salutiamo tutti. Alberto Sabatini, Marco d'Alessandria, dica. Sì, buongiorno a tutti. Premessa che secondo me Massa è stato un ottimo soldatino per tutto la seconda parte del campionato. Non mi è piaciuto molto lo stile Ferrari ieri, quando a 4-5 giri dalla fine si capiva benissimo che ormai il mondiale l'avesse vinto Vettel. Il secondo posto se l'era strameritato. secondo me poteva far passare avanti ancora Massa davanti alla sua gente. Secondo me no, perché poi se succede qualcosa a Vettel, queste cose rischi di pagarle, insomma. Quindi secondo me anche no, non so secondo il direttore di Autosprint. Ma quella di ieri è uno scambio di posizioni dovuto al fatto che fino all'ultimo poteva esserci un imprevisto. Vettel poteva comunque magari perdere una posizione, fare un lungo, esatto, fatto Raikkonen, esatto, e tanti esatto. altri, e una posizione faceva la differenza. Molto più, se vogliamo, discutibile la mossa della gara precedente in Texas, dove hanno penalizzato volontariamente Massa simulando una avaria per fare avanzare Alonso in un'altra parte della griglia di partenza. Quello è, se vogliamo, ai limiti della sportività insomma interna, non tanto perché si è penalizzato soltanto un loro pilota, ma perché si è penalizzato anche piloti di altre squadre, perché Hülkenberg è stato costretto a spostarsi anche lui. Questo è evidente, però siamo abbastanza abituati sul finale della stagione a giochi di squadra. Però è anche vero che c'è esce. Un titolo mondiale in ballo, esatto. E si prova tutte, qualcuno non l'ha fatto e qualcuno l'ha fatto. Vettel ieri ha detto una frase molto allusiva, ha detto non concordo su certe manovre, secondo me ai limiti che noi non avremmo mai fatto per tenere aperto questo mondiale. Sì, poi vediamo quando capiterà anche a lui. Grazie direttore Alberto Sabatini di Autosprint. Così chiudiamo ringraziando Filippo Aureggi in regia e Miriam Lucchetti in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati, ciao! Pronti a brindare con un bicchiere in mano, a sventolare le bandiere rosse e ad ascoltare ancora una volta senza cantare l'inno nazionale. Perché amiamo la Ferrari. You're the triple world champion, Sebastian Vettel. You are the man. You're a triple world champion. Perché amiamo la Ferrari.